Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio con queste note magnifiche di Rossini. Noi iniziamo Summertime di oggi, le famose note del Barbiere di Siviglia. Io lo dico sempre, la mia opera preferita, lo so, è un'opera buffa, però è la mia opera preferita. E perché? Perché quest'opera questa sera viene messa in scena addirittura nel Teatro Romano di Ostia Antica, quindi un'atmosfera sicuramente suggestiva, e a fare il Conte d'Almaviva è Roberto Nagy e a fare Rosina, a cantare come Rosina, Cristina Sogmeister. Allora, buon pomeriggio a tutti e due. Buongiorno. Iniziamo buongiorno dalla protagonista femminile, ci scusi il Conte, ma sappiamo che la corteggia nell'opera, quindi può attendere. Ah sì, una volta il tenore può attendere. Una volta il tenore può attendere. E andiamo a parlare di questo ruolo di Rosina, che è un mezzo soprano in realtà, un esatto, soprano leggero. No, in questa versione è mezzo soprano, a volte si fa col soprano leggero, questa versione invece è un po' come Rossini amava, cioè col mezzo soprano contralto. Ecco, ma perché Rossini ha scelto la protagonista come un mezzo soprano? Perché è un'opera buffa? Perché è una personalità particolare quella di Rosina? Secondo me. Rossini amava particolarmente i mezzosoprani e i contralti, ha scritto diverse opere per loro, quindi è proprio una voce che amava, non amava molto i soprani leggeri, ecco. Però c'è anche appunto la versione, ovviamente ha dovuto anche lui adeguarsi e fare anche la versione per soprano leggero. Che cosa vuol essere mezzo soprano, chiaramente? Ma che cosa vuol dire essere un mezzo soprano? Per esempio, spieghiamolo un po' a chi ci ascolta. No? Generalmente il ruolo principale è il soprano e il tenore, no? Maschile, femminile e maschile. Sì. E il ruolo secondario è mezzo soprano e baritono, posso dire così? In alcune opere, sì. E che cosa vuol dire essere protagonista in mezzo soprano? Come Rosina, una donna molto effervescente che sa quello che vuole, sa dove andare a parare, è una donna molto scaltra, molto molto anche buffa in certe cose, e soprattutto è completamente diversa dalle eroine liriche che si struggono per amore, muoiono di tisi, no? Certo. Ma la versione con mezzo soprano secondo me è interessante per un discorso che regala quella che è la sensualità di Rosina, perché comunque la voce del mezzo soprano, che è molto bella nel centro e comunque conserva naturalmente gli acuti, quindi non si risparmia nemmeno sugli acuti, però dà questa sensualità a Rosina che secondo me è interessante. Naturalmente io sono di parte, perché essendo mezzo soprano, chiaramente. Cristina, è emozionata di cantare al Teatro Romano di Ostia Antica stasera? Moltissimo, perché è un posto bellissimo, poi cantare all'aperto io trovo che sia una cosa, ha una magia che in teatro al chiuso non c'è, magari lì c'è un'altra magia ancora, però all'aperto c'è questa brezza, io trovo che sia fantastico cantare all'aperto, mi piace moltissimo. Allora, tanto per dare un assaggio, ma poi anche per stuzzicare un po' la conversazione appunto su questi ruoli canori, noi abbiamo trovato invece la Callas, quindi il soprano più famoso che ci sia, che canta proprio Rosina, e sentiamo che la canta in una maniera particolare, ovviamente, Cristina, perché essendo lei avendo lei una voce molto molto diversa, l'ha un po' riadattata, credo, no? Poi la commenteremo insieme, anche insieme a Robert. Trappole, ma Allora, Cristina, abbiamo sentito una versione un po' particolare della Callas, no? Sì. Si sente un pochino che queste note basse sono difficili oppure no? Ma io credo che la Callas sia un esempio di unione fra la voce del soprano e il mezzo soprano in questo caso, perché trova delle note gravi veramente interessanti, quindi c'è un po' questa commistione in questa voce di delle due cose. Veniamo a sentire te, veniamo a sentire te e veniamo a sentire un mezzo soprano puro, che quel ruolo che volle appunto Rossini. E chiaramente Rosina è innamorata in quest'opera del conte di Almaviva, no? Chiaramente ricordiamo, il Figaro fa un po' da ruffiano tra i due. Il conte d'Almaviva è un nobile uomo molto molto particolare, anche abbastanza gioioso. Come lo descriveresti, Robert? Prima volta si può dire del conte che è molto giovine. Per questa ce l'ha, si sente la necessità di un Figaro. Perché se era un po' più maturo, poteva fare tutto da solo. Allora c'è la necessità di qualcuno per aiutarla, e guarda, si trova Figaro, come si trovano in tutte le opere qualcuno che aiuta il tenore. Quindi il tenore viene aiutato da Figaro, che è un po' il tuttofare, e però il conte è anche giovane, in contrasto con il tutore di Rosina, che vorrebbe sposarla e che è un vecchione. No? Quindi c'è questo contrasto generazionale. Anche questo, ma anche c'è la problema che sempre c'è nella vita, la problema dei soldi, perché il tutore non ha bisogno di Rosina, ha bisogno dei soldi, della eredità di Rosina. Allora Rosina poteva avere 15 anni o 100 anni, se sono i soldi basta. Quindi è tutta una questione di soldi. Esattamente, molto semplice così. E ci sono anche varie cose che ci ricordano un po' l'Italia di oggi, no? Addirittura il tutore cerca poi anche di calunniare. Insomma, si costruisce tutta una trama, anche una sottotrama molto interessante. E proprio sui soldi, noi abbiamo trovato un brano di Luigi Alva. Noi ci scusiamo con voi, ma cerchiamo sempre dei tenori un po' dannata, anche per il rispetto dei tenori e dei soprano di mezzo soprano che si devono esibire in serata. Abbiamo trovato Luigi Alva che insieme con Figaro, che è Tito Gobbi, parlano proprio di soldi. Sentiamo. Del vulcano, del vulcano della tua mente, qualche mostro singolar, sì. Del vulcano della tua mente, qualche mostro singolar, sì, sì. Del vulcano della tua mente. Ecco, Robert, caratteristica di quest'opera sono anche i duetti molto carini, molto leggeri ma articolatissimi, ovviamente, perché Rossini era un grande, o sbaglio? No, era grandissimo in questi duetti, ma non solo in Barbiere, anche in Italiana, anche in Cenerentola, sono dei duetti fantastici, ma sono dei duetti che ti danno la possibilità di mettere la voce in valore. Allora, sono duetti che ti lasciano un po' di lavorare sulla voce, sulle intenzioni. C'è una cosa che per tutti i cantanti piace. È una cosa che a tutti i cantanti piace. Poi qui noi sappiamo che il conte d'Almaviva all'inizio dell'opera sta facendo una serenata, arriva Figaro e Figaro si offre di aiutarlo, e a quel punto poi si mettono d'accordo appunto sul prezzo, no? Esattamente, come ho detto io, il mondo gira intorno ai soldi, basta. E Rosina, ma a un certo punto c'è anche un duetto molto bello tra Rosina e Figaro, no? In cui si dà un biglietto, questo biglietto, e lì se conosciamo un po' Rosina nel migliore dei modi, no? Lei ha già stabilito tutto, sa chi vuole e sa, qual è. Ecco, rispetto alle altre eroine che tu interpreti generalmente nelle opere, in che cosa spicca Rosina? Che cosa ti piace? Qual è l'aria che ti piace di più? Nel Barbiere mi piace tutto quello che fa Rosina, io trovo che sia un personaggio molto frizzante, molto fresco, infatti è uno dei personaggi che preferisco sempre ogni tanto rispolverare e alternare con dei ruoli magari più pesanti, perché proprio vocalmente è un personaggio che ti porta alle origini, ti rinfresca la gola, ti fa il massaggio alle corde vocali, io lo adoro proprio, e poi è una felicità cantare Rosina, è una grande felicità. E una cosa interessante che avete detto giustamente sul denaro, ecco, Rosina invece è proprio a lei non importa assolutamente del denaro, tant'è che crede che il Conte d'Almaviva sia Lindoro, quindi uno spiantato, quindi è una piacevole sorpresa naturalmente alla fine sapere che lui è il Conte d'Almaviva, però a lei il denaro non interessa affatto in questa faccenda, forse è l'unica che... Lei ama e sa quello che vuole, non importa. Allora, il Conte d'Almaviva invece ovviamente la ama ed è anche una persona, un personaggio giovane, ma anche lui frizzante perché si ingegna, giusto Robert? Veramente, sì. Per amore si fa tutto. Per amore si fa tutto. Anche 200 anni fa, anche in questo tempo, si fa tutto. E allora, con queste parole di Robert e con queste parole di Cristina, ricordiamo Robert Nagy e Cristina Sogmeister, stasera al Teatro Romano di Ostia Antica, tra i protagonisti del Barbiere di Siviglia, Figaro ovviamente, e alle 21, mi raccomando, in questa splendida cornice. E noi lasciamo questa bellissima opera di Rossini con l'aria del Conte d'Almaviva, Ecco ridente in cielo. Summer time. E adesso andiamo a Roma, a Via Flaminia 118, oramai luogo storico dei giardini della Filarmonica, dove alle 21.30 Eleonora Danco si esibisce in intrattenimento violento, e tra le altre cose con Sandra Ceccarelli, Eugenia Costantini e Francesca Reggiani. Buon pomeriggio Eleonora, volevamo capire questo titolo perché è un po' inquietante, intrattenimento violento, che cos'è, una pièce teatrale, che cos'è, un ballo? Insomma, di che cosa parla? Allora, innanzitutto volevo precisare che Sandra Ceccarelli non c'è, non era stato mandato un comunicato, si vede che è arrivato tardi, però c'è Elisa Pavolini al suo posto, era impegnatissima Sandra a girare delle cose, dei film, e quindi ci sarà nella nuova edizione. Perfetto, insomma, sì. Quindi comunque la squadra è sempre quattro donne, giusto? Quella, Francesca Reggiani, Eugenia Costantini e appunto Elisa Pavolini, che sono una squadra, veramente si è creata un'energia molto bella, abbiamo fatto un ottimo lavoro, seppur con il poco tempo, infatti è un lavoro che presento in forma di studio, ma una bellissima energia. E questo è un lavoro, intrattenimento violento in realtà non è inquietante, cioè intrattenimento, a volte il teatro può essere anche una forma di intrattenimento, no? Le persone vanno a teatro per intrattenersi, quasi a livello, non ti dico il cabaret, però così, sono tutti passaggi, flash in questo senso, intrattenimento, non c'è una trama, sono tutti momenti. E poi violento perché comunque mette in luce la parte tesa, la parte, le cose che non si possono dire delle persone, violenza anche come qualcosa anche di interessante, non solo come qualcosa di pauroso o di negativo, ecco. E in questo senso il trattenimento violento c'ha un ritmo, è come se fosse un CD, guarda, le persone che vengono anche ad ascoltare un CD, oltre che a vedere una donna rana, una donna scarpa che si muove sulla scena. Sì, insomma, comunque... sono vari brani dell'aspetto femminile. No, guarda, in realtà non riesco, sì, a capire. Ti spiego. Sono, allora, la tematica di fondo è il rapporto dell'essere umano adulto, di noi adulti, con l'adolescenza, con quello che rimane in noi dell'adolescenza e come ce lo viviamo, come ce lo gestiamo. C'è chi ne è cosciente, c'è chi non riesce invece ad accettarlo, per cui magari diventa improvvisamente, no, si diventa come, che ne so, a 40 anni si diventa come i propri genitori, non so se è una cosa che gli ascoltatori possono notare, c'è chi rimane sempre come quando ti dicono sei un eterno adolescente, no? Comunque, a parte questo, c'è chi lotta con la propria parte adolescente per mantenerla viva, perché poi l'adolescenza che cos'è comunque? È il momento di ribellione di noi esseri umani, no? Che mettiamo in discussione tutto, verso la vita, proiettati verso spesso, no? Vogliamo essere noi, ci vogliamo staccare dai genitori, che è una cosa sana, per poi rientrare invece in un rapporto equilibrato, no? Questo dovrebbe succedere più o meno alle persone, succede. In realtà molti di noi invece tengono, soprattutto nel momento in cui viviamo, un rapporto a volte conflittuale con l'adolescenza, a volte nascosto, a volte isterico, perché ci sono persone che invece improvvisamente si negano delle cose, come se diventare grandi fosse negarsi, allora, e quindi magari diventano anche isterici perché si reprimono. E non c'è comunque un modo per essere giusti, penso, nella vita, no? No, però, assolutamente no. Però, ecco, il teatro, magari l'arte, possono far vedere questi aspetti senza giudicarli, perché non giudico nessuno, però ci sono vari aspetti divertenti, tragici, comici, anche delle donne, chiaramente, giustamente come dici, comunque sono tutte donne in scena. Infatti era questo, cioè, sono questa adolescenza però vista molto al femminile, perché certo, poi, No, sono personaggi femminili, ma che non sanno di avere questo conflitto con l'adolescenza, alcune di loro sono donne grandi, sono donne chi ha un conflitto col sesso, che dice che c'è questo personaggio femminile che assolutamente lei non ha problemi a dire che va, per esempio, sia con uomini che con donne, parla un attimo della conflittualità sessuale, no? E invece poi si capisce parlando che è una persona piena invece di contraddizioni, ci sono tutti flash di poesie molto divertenti sul corpo, sulla sessualità, sui momenti che ti ritrovi a ballare da solo, a essere con te stesso, c'è questo pezzo di questa qui che balla, si dimena in casa da solo, eccetera, poi dice: hanno suonato alla porta, forse un uomo, sì, il negoziante di sotto che al citofono dice: signori, che è sta musica alta, che sta, ma in campeggio, dice, rimango a girare, lo odio, che vuole da... Questo purtroppo a Roma avviene, le musiche alte avvengono. Sì, esatto, c'è questo rapporto con la strada sempre presente, e poi ci sono anche questi flash, per esempio quest'altra donna, invece l'anima in pena, che non sente, si, capito, un momento di perdizione che può succedere a tutti, universale, cioè di questa persona che si sveglia, pensa che sono le 9, è contenta, si sente come gli altri, invece è mezzogiorno e si perde in un supermercato, e poi dice, poi entro in un negozio per ragazzi, che ormai lo siamo sempre e tutti, e la proprietaria gli dice: ha bisogno d'aiuto, da anni le rispondo, scappando pure da quel luogo, e si perde in questi negozi, insomma è tutto un perdersi nella città, dice, in queste, con questa pioggia di persone, di colori che sono le persone, e in quest'anima che esce appunto dai colori che certi giorni non smettono nemmeno se non guarda, adesso non ricordo il passaggio preciso. Insomma, come hai detto tu, Eleonora, mi sembra che ci siano proprio un CD, una serie di brani musicali, teatrali, sulle donne e sui loro rapporti conflittuali. Ricordiamo, questa sera a Via Flaminia 118, i giardini della Filarmonica Romana, ovviamente a Roma, alle ore 21:30, intrattenimento violento di Eleonora Danco con Elisa Pavolini, Eugenia Costantini e Francesca Reggiani. Grazie Eleonora. Grazie a voi, arrivederci, ciao. Beh, con questa musica non si direbbe che diciamo la questione fondamentale è se vogliate o meno vendere la propria anima, la vostra anima al diavolo, perché questo è quello che è il dilemma di Faust. E noi sappiamo che questa sera a Macerata, nell'ambito del Sferisterio Opera Festival, si celebra proprio, è in scena il Faust di Gounod. Buon pomeriggio a Pierluigi Pizzi. Buongiorno. Allora, che cosa è in scena di tutto e di più in quest'Opera Festival a Macerata? Il Faust, la forza del destino, i Lombardi alla prima crociata, insomma un po' di tutto. Sì, ma un po' di tutto, ma non casualmente. Sono tre titoli messi insieme secondo un progetto artistico ben definito. E intanto possiamo dire che il tema che è alla base di queste scelte, a maggior gloria di Dio, nasce come tributo alla persona, alla personalità, al carisma di padre Matteo Ricci, maceratese, come ognuno sa, è stato molto, si è molto parlato di lui in questo periodo, per la ricorrenza del quarto centenario della morte di questo grande missionario, di questo grande uomo di fede, Gesù. gesuita, ma anche scienziato, anche uomo di lettere e di scienze e di musica perfino. Allora, per onorarlo, il festival di quest'anno, questa quinta edizione, si è aperta con la rappresentazione del Vespro della Beata Vergine di Monteverdi, che è stato pubblicato proprio a Venezia nel 1610, l'anno della morte di Padre Matteo Ricci. E questo è già avvenuto con grande successo nella chiesa di San Paolo e nell'esecuzione di Marco Mencoboni e del suo gruppo Cantar Lontano. Poi avete aperto col Faust il 30 luglio. Il Faust che doveva andare in scena non c'è andato perché una pioggia torrenziale si è rovesciata sullo Sferisterio e questo ha vanificato le nostre aspettative fino all'ultimo del tantissimo pubblico che c'era lì già ai cancelli del teatro in attesa di entrare. Poi invece abbiamo avuto per fortuna la forza del destino e i Lombardi che sono andati in scena molto bene con grandissimo successo. Quindi quella di questa sera è una prima, diciamo, perché quell'altra è una prima di Faust e speriamo che questa volta il diavolo non ci metta la coda perché il tempo sta cambiando, abbiamo avuto una mattinata splendida, adesso ci sono un po' di nuvole minacciose, vediamo cosa succederà stasera se il diavolo ma come Christophe lo sapeva pure Goethe quando ha scritto, perché sappiamo che tutta l'opera si basa poi sulla prima l'opera teatrale di Wolfgang Goethe. Allora, quindi un festival che sta andando molto bene, che ha praticamente come trait d'union la ricerca di Dio, poi un pochino, no? Sì, le scelte hanno avuto come orientamento proprio la religiosità in qualche modo. Certo, ci sono tutti i temi ricorrenti del melodramma italiano e francese dell'Ottocento e per questi principalmente è proprio Dio a cui si ricorre in ogni occasione, in momenti di solitudine, di abbandono, di disperazione, c'è Dio ma per consolarci, per aiutarci, ma anche un Dio giusto, un Dio che fa giustizia e quindi la presenza di Dio è costante in tutte queste opere. Però c'è poi anche il diavolo. E che sappiamo fa le pentole ma non comporta. I coperchi, visto che ha poi fatto piovere sulla sua opera, no? Sull'opera in cui lui è il coprotagonista. Allora ricordiamo il Sferisterio Opera Festival, l'appuntamento è all'Arena Sferisterio di Macerata e a che ora? Alle 21. Perfetto, quindi l'appuntamento con l'opera questa sera con Faust e speriamo che il diavolo non ci metta la coda. Grazie a Pierluigi Pizzi. Arrivederci. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it o che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it e vedere quali sono gli appuntamenti della serata. Per quanto mi riguarda, ovviamente, una buona serata a tutti.